Siamo con Matteo Ricci e Jessica Colantonio per parlare della mostra fotografica Una Storia all'interno del Festival di Teatro Pop Castellinaria, prima edizione, al Castello di Alvito dal 21 al 27 luglio. Bentrovati. Sì. Descriviamo questa mostra. Sì, allora, la mostra è una collettiva. Qui ad Alvito siamo 25 fotografi con 25 opere, una per persona. Appunto, come dice il titolo, ogni foto racconta una storia e è proprio questo che ha ispirato la mostra. Diciamo che l'intento era di dare la possibilità a tutte quante le persone, che poi vabbè sono variate, durante il numero è variato durante le varie esposizioni, di raccontare appunto qualcosa di loro o di un evento che hanno vissuto, oppure di una propria emozione trasportata sotto forma di fotografia, piuttosto che, non lo so, un paesaggio. Le foto sono molto varie. Ecco, appunto, quindi il senso della mostra, quello che ci ha spinto non a fare una mostra, diciamo, personale mia e di Jessica, è stato proprio l'intento, quello di riunire più persone possibile, anche per creare contatto e per creare un rapporto poi reale, cioè scaturito appunto da conoscenze che magari erano solo via social o comunque frutto magari di rapporti lavorativi e via dicendo. Okay. Tutti artisti più o meno provenienti dalla zona, tranne anche provenienze dal Molise. Come è avvenuto questo incontro tra vari artisti? Come vi siete contattati? Ma in realtà la maggior parte sono conoscenze che avevamo sia io che Matteo, alcuni solo io, alcuni appunto solo Matteo, e si è cercato appunto di creare un certo contatto un po' tra tutti quanti. I tre ragazzi molisani erano delle mie conoscenze, quindi diciamo che li ho contattati, particolarmente io conosco uno di loro, poi lui ha creato a sua volta insomma ancora contatto con altre persone che lui conosce, quindi è appunto bello, insomma, mi riaggancio a quello che ha detto Matteo, proprio perché si è creato una sorta di collegamento insomma tra tutti gli artisti. Anche adesso insomma che c'è la mostra è bello perché si crea comunicazione attraverso le foto, attraverso i semplici appassionati. Anche se posso aggiungere, anche la conoscenza comunque di persone, perché qualcuno ci ha contattato, abbiamo fatto delle pubblicazioni sui nostri social e qualcuno ci ha contattato chiedendoci se poteva esporre delle foto, e quindi ecco, abbiamo avuto nuove conoscenze derivate proprio dalla mostra. Allora, la prima uscita è stata poco tempo fa e quindi già siamo alla terza uscita, se non sbaglio. Sì, la prima uscita 16 e 17 giugno durante Arrete Castiglie, che è un evento che era la seconda edizione ad Arce. Poi la seconda c'è stata a Frosinone, c'era un'isola pedonale, quindi su al Belvedere di Frosinone con l'aiuto dei ragazzi di Interno 36 e di Giacomo De Angelis abbiamo potuto esporre. Che ha funzionato un po' come il raccordo. Sì, sì, perché Giacomo esponeva anche lui durante la prima esposizione e per la seconda invece si è fatto proprio organizzatore insieme a noi. Ecco, e la terza, qui siamo alla terza e speriamo di non fermarci qui. Okay. Cioè abbiamo qualche progetto ancora non definito, però abbiamo qualcosa già in cantiere. Bene. E appunto, per chi volesse saperne di più, ci lasciate tutti i riferimenti web? Sì, vabbè, io ho la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram, Jessica Colantonio e J Cole su Instagram. Benissimo. Stessa cosa io su Facebook, Matteo Ricci, e Matteo Ricci su Instagram, e probabilmente forse non so se creeremo qualcosa che vada oltre però la mostra fotografica, ad esempio una pagina anche per eventi futuri, magari l'anno prossimo, o comunque per collaborazioni anche insieme ai ragazzi di Interno. Ecco, anche la pagina di Interno 36, che comunque ci dà una mano grandissima nell'organizzazione, lì potete trovare prossime, diciamo, o locandine di eventi a cui parteciperemo, comunque informazioni sulla mostra. Allora, ricordiamo la mostra Una Storia all'interno del Festival di Teatro Pop Castellinaria, prima edizione al Castello di Alvito in provincia di Frosinone dal 21 al 27 luglio. Grazie Matteo, grazie Jessica. Grazie mille.